up, big man, don't cry. You never miss the water till the well run dry. Would you find it in your heart to give me one more blight? I won't abuse the situation, this time I won't lie. For my nightly conversation, also my lullaby. Precious squeeze orange juice, and my eggs well fried. Garments well clean, from my socks to my tie. She's a friend, also a lover, that mean me not be shy. We express myself straight up to the sky, yo. Ooh. Say that big man don't cry. You never miss the water till you well run dry. Me say, ooh, say that big man don't cry. Now I'm falling in love all over again. It's only natural. How could I ever doubt that you were my friend? Sweet chat, I know you massage me back. He gone me have a sister, and time I get that. Woman want affection, woman the feeling pan. Through me ignorance, me never understand. I'm going to take time out to show me love motion. I make you know we can't stop correspond. I am the greatest lover boy in on the island. More time you sleep, but more time you go around. Hear me out, woman, I beg you understand. Even the wisest man, the great King Solomon, take with him picky and get a wrong bank. That's how him lose him throat in the great Babylon. So me say, oh, say that big man don't cry. I learned the hard way, woman, don't ask me why. Yo, oh, say that big man don't cry. Come berries, I'ma come tell the world why. Now I'm falling in love all over again. Yeah, how could I? She's a friend and all this going on. Put on the land for man, the man, I make them take sense. Whole time you hurt them feeling and make them vex. But I'm making a part, that is the greatest. This was matters over compatibility and kiss and caress. Why I'm bunch of band and them rate you as the best. Tell me, oh, say that big man don't cry. I learned the hard way, don't ask the DJ why you. Oh, say that big man don't cry. Now make me eyes dream, there is him, no stop cry. How could I? Said I'm in, then in, done. Baby, my mother said I'm in, gang, gang, Jaja know it was a big disgrace. See some of them face all over the place. When you see some brain at marrow, Jaja know that it bring for sorrow. Some live fishy tomorrow, eh? Say then, wherever more they better suck on in bed. Some are general, some are criminal, some they are yellow, some be rational, eh? Wherever more they better send them, eh? Wherever more they better suck on in bed. Wherever more they better send them, tell them. Wherever more they better suck on in bed. When you see some brain and marrow, Jaja know that it bring for sorrow, eh? Jaja know it was a big, big disgrace. See hero faces all over the place, eh? Wherever more they better send them, tell them. Wherever more they better suck on in bed and then. Holy pa heroes, them dead and gone. Jaja know that them history still have one. As one dead, another one behind. Me say the lucky thing a few run gone, eh? Wherever more they better send them, then, eh? Wherever more they better send them, then. Me say where is the army gone? Say me no no, army no no, me no no, eh? Me say me wanna where the Sharon gone? Say me no no, say me no no, me no no, eh? Holy pa hero say them dead and gone. Holy pa hero say them dead and gone. Wherever more they better send them done. Wherever more they better send them then. Some are general, some are criminal, some in a yellow, some are funeral, hey. Wherever more they better send them done. Wherever more they better send them done. Special dedication for Fire from Babylon. Big Sound of Aroma, Sierra Maestra, Hotel Lotto Willie, Osh, Smash, I love you. Step up and play the rhythm. Come. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire from Babylon. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Hey, music catch a fire, fire from Babylon make me inspire. So music make the fire blaze. Music catch a fire, fire from Babylon brings you higher. Give me the fire blaze. You are my sunshine, fire from Babylon I'm yours. Food for my heart and soul, the only sound I need some more. Massive, can you feel the love I come? Fire from Babylon I play. Massive, can you feel the love? Massive, can you feel the love I come? Fire from Babylon I play. Massive, can you feel the love? Play 45, big sound number surprise. Into the overdrive, I saw the people get mad and I go multiply. Real sound I find, Mr. Strength in a bit polite. Nothing for them I blind your mind, but fire from Babylon I unify. You know this sound can bring you higher. Fire from Babylon I play. Your is on fire. Switch up on a bass, put up your lighter. Big sound I play tonight. You are my sunshine, fire from Babylon I'm yours. Food for my heart and soul, the only sound I need some more, hey. Massive, can you feel the love I come? Fire from Babylon I play. Massive, can you feel the love? Can you feel the love I come? Fire from Babylon I play. Massive, can you feel the love? Just only big shoes them play. Too much bad music nowadays. Take your little time, don't you be unkind. Like them used to be on the road. Remember fire from Babylon can do one. Put down your full iron gun. Remember we I told them time, play music make me a better man, eh. Now I see the light, and I call it vibes. Fire from Babylon for life. Fire from from Babylon a chat and a chat. When me was a little, you was all in a dot. Them not go chin, I saw them tan. Play music, make me a better man, eh. And now I see the light, and I call the vibes. Fire from Babylon for life. You are my sunshine. Fire from Babylon, I'm yours. Food for my heart and soul. The only sound I need some more, ay. Massive, can you feel the love I come? Fire from Babylon, I play. Massive, can you feel the love, ay. Massive, can you feel the love I come? Fire from Babylon, I play. Massive, can you feel the love? Tell Tolly, big up Ush, Smash, Hilario, Large himself, Roma, Sierra Maestra, hear this. Pally tricks them a rub way. Fire Pally. Babylon them no like way. Fire Pally. System wanna trick way. Fire Pally. Society want to judge way. Fire Pally. And now we're fighting, now we're fighting, now we're fighting. This your fire, I go bomb it. Fire upon Babylon. Rise and take a stand. You know the dance side. You know this your comedy. When I like me we rule. Find a remedy. Damn a brutalized we soul. Soldiers in the bucket field. When I reach the goal. Fire upon Babylon. Them play the chon chon. Them play the top a top chon. Them play the dub dub. Them play the dub a dub dub. Every single dancer them play. Oh, reggae music them a carry away. Politics them a rub way. Fire Pally. Babylon them a like way. Fire Pally. System on a trick way. Fire Pally. But fire upon Babylon play the tune. Fire Pally. And now we're fighting, now we're fighting, now we're fighting. This your fire. Positive fire. Piano, piano, gliela famo, piano, piano, cominciamo. Take a slide. Sierra Maestra. Prove generali. For the mama, for the children, for the papa. For everybody, fire upon Babylon and play. Every single day. United we stand, divided we fight. A message to one and the other. It's a people. Fire upon Babylon. It's a people. All the wicked them a gone. It's a people. All the good vibes in me. Big fire up upon them. Fire upon Babylon sound. Fire upon them. Me brethren, Othello, Towele. Fire upon them. And the whole family. Run with this, mash up with this. Alright. Up the place, on up the base, and make them all have fun. Fire upon Babylon, a bonding. E piano piano continuiamo. Non potevamo esimerci come ogni anno a fare gli auguri a Saturnino, detto Nino Manfredi. Ma ma pensa che bellezza, non c'ho niente da fa. Porcaccia la miseria, nientissimo da fa. E rompo gli stivali a tutta quanta la città. Perché non c'ho niente da fa. Rugantini, rugantina, le mele che ne già vuoi ruga. Rugantini, rugantina, tra quelle buone non c'è poi fa. Sto proprio come un papa, anzi meglio santità, perché lei gira gira qualche volta da scobà, io viceversa scoppo solamente se me va. Perché non c'ho niente da fa. Rugantini, rugantina, c'è sempre voglia di t'aspettà. Rugantini, rugantina, ma non c'è voglia di lavorare. Voglia di lavorare, sartemi addosso, ma fammi lavorare meno che posso. Non posso perdere tempo, non c'ho niente da fa. Levatevi di mezzo, fate larga sua maestà. Arriva Rugantino che c'ha voglia di rugà. Perché non c'ha niente da fa. Rugantina, Rugantine, che mai cercano se forza te. Rugantini, Rugantina, domani e corpo chi te la dà. Emperor Rastafari, electrically, musically, I am Raphael Love. Exodus 6, Johnson. 6 million years. Oltre gli auguri a saluto non ho preso. Musical. Facciamo anche a Lee Scratch Perry. Exodus. This is Northern South Africa. Exodus. Mary Terry Moss. Mary Ashes and Mary Dust. Flying scratching. Flying attaching. Running in the wings of the dawn. Exodus. The moon is shining. The stars are twinkling. Sending their loving from above. Oh, Holy Trinity. Love divinity. Kinky guru, send eyes Guns N' Roses. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Disco devil, dressed as a disco rebel. She bump, she bump, she not up on the sky. She bump, she bump, she not up on the sky. She bump, she bump, she not up on the sky. She bump, she bump, she not up on the sky. Look at the disco devil, dressed as a disco rebel. Level the disco devil, dressed as a disco rebel. No trouble for in your pool a rebel. Disco devil. My brother make no trouble for in your pool a rebel. Disco devil, look at that ci ha lasciato. Come sempre, noi facciamo i compleanni. Abbiamo fatto una sola serata ad Anzio, eravamo io, Ciccio e Lollo dei Massi Fizzi, bei tempi. Siamo andati anche ad Amsterdam, a proposito di Broski, che intervisteremo settimana prossima, che si è trasferito in quel di Dam, e andiamo avanti così, sempre con i ricordi. Ken Booty, che signore, pensate, a Bergamo 5-6 anni fa, davanti a una coppia che gli chiedeva di cantare Everything I Own per fare la proposta di matrimonio, lui lo fece. E questa era la canzone. Una delle canzoni d'amore più belle del mondo. Abbracciatevi. Sentitevi. You sheltered me from harm, kept me warm. Da cui trasmettiamo questa sera, come tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. E anzi, vi ricordiamo sabato l'appuntamento con Gemini Network. Let's get together. Giornata nazionale. We all can unite. Pranzo, cena. Take off these chains. Buone vibrazioni. From off our feet. E discorsi seri, eh? Cause we gonna walk, we gonna walk. Walk on freedom street. Everybody knows we gonna walk, we gonna walk. Walk down freedom street. Let me tell you people, united we stand. Divided we fall. Respect your brother. Yes, Satisha Bondi here. Let's not deal with the illiteracy. Work it out intelligently. Lord, cause we gonna walk, we gonna walk. Walk down freedom street. Everybody know we gonna walk, we gonna walk. Walk down freedom street. Freedom street. Si parlava di trattative. Niente calciomercato, niente calciomercato. Salutiamo Fabio B, neo ingresso in Mashup Babylon. Purtroppo ce l'hanno scippato proprio sul filo di lana, come si dice? Sul filo del rasoio. E andiamo avanti al foto finish, esatto, grande DJ Smash, proprio per quello che non ti ho ceduto. Andiamo avanti, appunto, senza DJ Smash. Ain't no sunshine. Ultima parte del tributo a Ken Booth. E poi ci andiamo a sentire e presentiamo il nuovo pezzo Chop Chop Bang. Un equilibrio fragile. No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Simone all'ascolto, quasi ci ripenso, vi do tutto too long, anytime she goes away. Wondering this time where she's gone. Wondering if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, you're gonna leave young thing alone. Cause ain't no sunshine when she's gone. Darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away, yeah, yeah. un attimo interromperti, che tutte le canzoni d'amore non le sapeva scrivere, eh? Un poeta. Cazzarola. Ken Booth, ma poi è un signore. Ma tra l'altro a Bergamo si presentò con la moglie, due vecchietti lì, mano a mano. Co... due signori un po' agi, diciamo, una coppia un po' agi, bellissimi, o bellissime, non lo so, come si pronuncia la schwa, per dire una bellissima coppia, che così facciamo contenti tutti, una bellissima coppia sposati da oltre 50 anni, veramente, Ken Booth, signore, gli facciamo ancora tanti auguri nel giorno del suo Budapest. E questa è la Chop Chop Band, e questa è l'intervista. E come sempre, questa è Pirate Radio 21-23, Firebomb Babylon in session. Spazio interviste, questa settimana intervistiamo la Chop Chop Band, collettivo attivo da oltre 30 anni, che ha appunto solcato i palchi d'Italia da nord a sud. È una tune molto ambientalista. Cosa vi ha portato a realizzare questa tune? Cosa ci ha portato a realizzare questo brano? Beh, sicuramente la consapevolezza di quello che sta accadendo sul nostro pianeta, di quello che l'uomo sta infliggendo alla Terra. Basti pensare che sono bastati 100 anni di industrializzazione, da quando è scoppiata l'era industriale, per rovinare tutto quello che il pianeta, la natura, ha realizzato in milioni di anni. Ed è il fatto che comunque la sensibilizzazione della popolazione, dell'umanità, a questo tema è sempre poca rispetto a quello che si potrebbe fare. Cosa si potrebbe fare, secondo voi, per rendere più stabile un equilibrio tra uomo e natura? Dopo questa risposta andiamo a sentire finalmente il primo pezzo, Un equilibrio fragile, Chop Chop Band. Dunque, le proposte. C'è da premettere che il discorso è molto ampio, ovviamente non possiamo entrare nei minimi dettagli particolari, ma so benissimo che principalmente quello che possiamo fare, che può fare ognuno di noi, che possiamo fare noi nel nostro quotidiano con i piccoli gesti, un esempio, dal differenziare i rifiuti sperando che poi il ciclo si concluda così come ci raccontano e non che poi troviamo le sorprese, tipo che i nostri rifiuti finiscono tutti quanti in discarica. Due, non sporcare in giro, anche il semplice gesto di un cicca di sigaretta, che sappiamo benissimo che compie centinaia di anni per dissolversi nel mare e quindi inquina. Sono piccoli gesti che noi possiamo fare, ma le risposte più concrete le deve dare la politica. Chi è responsabile, chi è preposto a dare delle linee guida affinché si possa risolvere il problema. Ovviamente sappiamo benissimo che la politica segue l'economia, perché deve seguire il consenso e tutta una serie di stratagemmi che conosciamo benissimo, e quindi fare le leggi più stringenti per chi inquina, per chi sporca, per chi deteriora il nostro ambiente. Quindi pene severe, pesanti, perché faccio un esempio, finché un'azienda sa benissimo che la multa che potrebbe pagare è inferiore a quello del costo dello smaltimento di un rifiuto speciale, un rifiuto pericoloso, ovviamente cosa fa? Non fa la differenziata, non compie il ciclo di smaltimento di quel rifiuto, preferisce prendersi la multa, perché comunque questo è un piccolo esempio. Ovviamente ritorno al fatto che le scelte principali spettano alla politica, che deve dare delle linee guida appunto affinché tutti si possano attenere e rispettare, in modo tale che potremmo ritrovarci in un ambiente più pulito. Oggi devo dire che i giovani, i ragazzi hanno preso più coscienza della questione rispetto a tanti anni fa, un po' di anni fa. in quanto vediamo dei movimenti ambientalisti, fortunatamente, che stanno scuotendo le coscienze di tutto il mondo. Quindi sono fiducioso, anche se si tratta di limitare i danni, non di risolverli, perché ovviamente fin quando non si adegua l'industria, non ritiene che l'ambiente è un business, non metterà in campo nessuna opera affinché si possa risolvere. Dentro un equilibrio fragile, ruota senza tempo intorno a sé. Quanto ancora può resistere? Ci sarà un rimedio, dipende anche da te. Dentro un equilibrio fragile, ruota senza tempo intorno a sé. Quanto ancora può resistere? Ci sarà un rimedio, ora tocca a te. In un mondo che ormai non sa più, non sa più dove andare. Corre forte ma va sempre giù, non riesce a rallentare. Quale direzione prenderà? Difficile sapere. Se poi in fondo chi deciderà? Si perde in un bicchiere. Strane nuvole minacciano la mia città, gocce colorate di una pioggia acida. Brucia l'aria ed dappertutto irrespirabile. Scenari apocalittici per questa umanità. Non si può scappare via da qui, non c'è tempo per illudersi. Bisogna fare in fretta e muoversi. Non c'è un altro posto dove viverci. Dentro un equilibrio fragile, ruota senza tempo intorno a sé. Quanto ancora può resistere? Ci sarà un rimedio, dipende anche da te. Dentro un equilibrio fragile, ruota senza tempo intorno a sé. Quanto ancora può resistere? Ci sarà un rimedio, ora tocca a te. Non ci sono più conchiglie sulla spiaggia, solo plastica e bottiglie e una carcassa. E chi inquina non ci mette mai la faccia, si vergogna perché sa di essere una scelta. Si riempiono le bocche, adesso parlano di green, mentre in giro sporcano la loro casa e clean. Provocano incendi per creare un nuovo business, e ormai questo pianeta è sotto stress. Strane nuvole minacciano la mia città, gocce colorate di una pioggia acida. Brucia l'aria dappertutto irrespirabile. Scenari apocalittici per questa umanità. Non si può scappare via da qui, non c'è tempo per illudersi. Bisogna fare in fretta e muoversi. Non c'è un altro posto dove viverci. Dentro un equilibrio fragile, ruota senza tempo intorno a sé. Quanto ancora può resistere? Ci sarà un rimedio, dipende anche da te. Dentro un equilibrio fragile, ruota senza tempo intorno a sé. Quanto ancora può resistere? Ci sarà un rimedio, ora tocca a te. Appunto, la Chop Chop è attiva da oltre 30 anni, anzi da 30 anni senza l'oltre. E come giudicate l'andamento, l'evoluzione o l'involuzione della scena reggae nel corso della vostra, appunto, lunga e rinomata carriera? Il reggae in Italia, dunque, parlare di reggae oggi in Italia è un po' complicato, in quanto è sotto gli occhi di tutti, insomma, una vera involuzione. Non so se si tratta di un cambio generazionale o comunque non c'è stato un grande coinvolgimento delle nuove generazioni, ma perché è cambiata la società, è cambiato il modo di comunicare e insomma di conseguenza si è scollato un attimo tutto quello che era il movimento, a prescindere da magari un po' di zone dove persiste la scena, comunque riesce ad essere ancora attiva, ma non come prima. Io fortunatamente ho vissuto il reggae dagli anni 80, poi sfociati nel 92 con la formazione della Chop Chop Band, che appunto è nata nel 92. E, dicevo, è tutto legato a quello che propone la società, che è in continuo cambiamento. In quegli anni, gli anni 80, 90, fino al 2000, 2005, c'era voglia di aggregazione, c'era voglia di scoprire, c'erano soprattutto c'erano i posti, c'erano i centri sociali, c'erano tantissime attività che accoglievano le proposte degli artisti reggae, c'erano investimenti nel mondo del reggae. Sono stati anni bellissimi dove c'erano tantissimi concerti in Italia di artisti italiani e stranieri, soprattutto giamaicani o inglesi, perché c'era un ritorno anche economico che molto spesso magari non ci si guadagnava, però si riusciva ad ottenere una scena, a tenere una scena bella attiva, ci si tornava a casa soddisfatti di aver vissuto una bella esperienza. E fortunatamente io ne ho vissute tantissime di queste belle esperienze. E appunto va di pari passo a quello che è l'andamento sociale. Cioè, oggi la comunicazione non facilita l'aggregazione e quindi la voglia di stare insieme e di affrontare insieme soprattutto questo, affrontare insieme quelle che sono le tematiche che il reggae, di cui il reggae è portatore, i valori di cui il reggae è portatore. Quindi è sicuramente un'involuzione, purtroppo. Spero che tutta la scena possa presto riprendersi, vedo che comunque si resiste, come sempre, ci sta in trincea, perché certi valori in ognuno di noi non devono morire. Prossime collaborazioni della Chop Chop Band, album piuttosto che featuring e anche un tour, immagino, per i vostri 30 anni. Ok, grazie per questa domanda, perché insomma parlare di progetti oggi, per come funziona la musica, soprattutto il reggae, poi veicolare un progetto reggae oggi, come dicevo prima, in Italia non è molto semplice, perché non ci sono poi dei riscontri tali da poter fare investimenti, perché poi si tratta comunque di questo. È vero che questa musica si fa soprattutto per passione, per condivisione di valori, eccetera, eccetera, ma poi deve avere un riscontro economico che ti faccia campare. Questo è fondamentale per tutti, per ogni attività e anche per chi fa musica. Il progetto, c'è sicuramente un album. Noi stiamo procedendo a piccoli passi con dei singoli. A luglio scorso è uscito Guaio, il nostro singolo di ripartenza, diciamo, della Chop. Oggi ci proponiamo con questo un equilibrio fragile, con questo brano, per appunto sensibilizzare ancora di più la gente a queste tematiche. Le collaborazioni, i tour, quelli che vengono, cioè noi siamo aperti come sempre e da sempre a qualsiasi tipo di collaborazione, quindi ben vengano qualsiasi tipo di collaborazioni e di featuring e tutto quello che ne consegue. E allora, prima di continuare con l'intervista e di andare sulle ultime due domande, ci sentiamo un paio di tune dal passato della Chop Chop Band. Ci andiamo a sentire la loro versione di Una carezza in un pugno, pezzo ovviamente di Celentano, e poi ci sentiamo un po' di Volume. Altro pezzo storico della Chop Chop, da oltre 30 anni sui palchi di tutta Italia, Uata Bomba Band, questo è Port Royal. Ci sentiamo questi due pezzi, finiamo l'intervista e andiamo avanti. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23, Pirata e Radio.

che pratico ogni mattina, che più di un metodo per me è una vera terapia, molto più forte ed efficace di ogni medicina, guarisce e salva dalla tristezza e dalla nostalgia, e non mi importa della vicina di quello che potrà mai pensare, che tanto lo so cosa pensa di me, sono un tipo particolare, in fondo le sono simpatico, infatti più a volte la sento cantare la stessa canzone che ascolta, che grazie al volume la fa spensierare, e fai pure come me con la canzone che ti fa star bene, e fai pure come me, non chiederti perché, alza il volume, basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore, anche se è un leggero barlume, tu dagli fiducia, tu dagli calore, basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore, anche se è un leggero barlume, tu dagli fiducia e calore, yeah. Quando e dove potremo vedervi dal vivo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane? Bene, questa è una domanda da 100 milioni di dollari, direi, perché il movimento, di conseguenza, a quello che è il movimento, non ci sono molte realtà dove potersi esibire. Sono diminuite tantissimo nel corso di questi anni. E noi stiamo lavorando, grazie anche alla collaborazione con Mario Lorusso, che ci sta dando una mano per trovare delle date per il nostro booking, fondamentalmente, per riuscire a stare in giro un po' dappertutto. L'estate scorsa abbiamo fatto un po' di date, sempre però in showcase, noi lo chiamiamo live set, io e Claudio Kugla, in due ci siamo proposti e ci proponiamo anche in questa versione alternativa alla band, perché bisogna affrontare ovviamente i costi di una band. Sappiamo benissimo, visto che il movimento comunque non vive un momento glorioso, è bene anche, pur di proporre la propria musica, trovare delle soluzioni alternative, e noi le abbiamo trovate in questo modo, cioè ci proponiamo io e Claudio con le nostre basi originali, dove poi svolgiamo appunto lo show proponendo i nostri brani. Quindi presto io spero di vedervi in giro, di ritornare sui palchi. E grazie al fatto che comunque abbiamo cominciato un percorso facendo uscire a luglio scorso il singolo Guaio, che è andato abbastanza bene, devo dire, una risposta che non mi aspettavo, e adesso vediamo l'evoluzione di questo brano, di Un equilibrio fragile, e poi prima dell'estate sicuramente ce ne sarà un altro singolo per affrontare, appunto, dare una spinta maggiore a quelle che possono essere, potrebbero essere, le date. Ovviamente consiglio a tutti di tenersi informati, di iscriversi alla nostra pagina Facebook, al nostro canale Instagram, ovviamente anche al nostro canale YouTube, quindi cercate Chop Chop Band sul web, e dateci una mano a crescere e così resterete anche informati di quelle che sono le nostre attività. Ringraziamo Claudio e Pino Pepsi per questa, appunto, per questa intervista. Erano la Chop Chop Band e appunto ci vedremo sicuramente in giro su qualche palco durante l'estate, durante la primavera. Bless up, grazie ancora. Bless up yourself. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23 ricominciamo con la selezione dal vivo. Yes I. No, grazie a voi per averci ospitato, grazie a te Otello per la disponibilità. Devo dire davvero, spero di vedervi presto in giro. Niente, ci vediamo presto, seguite i nostri canali. Un caloroso abbraccio a tutti voi. Un chop chop a tutti quanti. Ciao. Domani. Se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà. Domani. Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Domani. E se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà. Domani. Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Domani. Oggi c'è in testa te e non so perché. Domani chissà se ti va, senti qua. I ricordi sono in fila e non mi mollano. Ad uno salgono e mi tormentano. Sono in paranoia dura, dolce tortura. Paura come quella sera. Indeciso sul baciarti o meno. A parlare sul divano ore. La prima volta che assaggiavo il tuo sapore già ne ero strettamente dipendente, cotto immediatamente ed era tipo che ci importa di domani. Stringimi le mani, i baci non risolvono i problemi. Ed ora non ci sei, domani è già arrivato e brucia dentro, sai, anche se ero preparato. E cadono parole come pioggia sulla strada, forse per la domani il sole che le asciuga. Non so dove mi porterà questa marea. Domani. Sei con qualcuno o sei con te? Domani. Non so domani neanche se sarò con me. Domani. O se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà. Domani. Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Domani. E se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà. Domani. Tienilo con te. Se domani un nuovo vento, la mia passione soffierà via. Domani. E se domani quale fuoco ecciterà i peccati miei. Domani. Perché domani non ci sei. Domani. Domani non c'è noi. Domani. Domani c'è solo domani. Domani. Domani. Domani. E ancora cambio umore se ti penso. È un bel po' che non ti sento, ma non mi frega che stai facendo. Dentro un'immagine di te che parla. L'ho fatta per guardarla e non voglio rovinarla. E tengo solo il buono come il tuo profumo, che mi ha sballato più di ogni cosa abbia bevuto o fumato. E mai nessuna foto renderà giustizia al tuo sorriso quando esplodi all'improvviso sul tuo viso. Lascia stare, domani avrò un altro posto dove andare. È un'altra rima da inventare. E neanche so dove saranno i miei pensieri. Forse sarai una luce che illumina il mio ieri. Ancora rido se pensi ai soprannomi che mi hai dato. Li sapesse anche il mio amico, sarei rovinato. Non credi, sono ancora in piedi. È lontano che non mi vedi, ma oggi tu sei la mia musa, baby. Fata benedetta, frega maledetta. Insieme faccio di te le rime mentre domani viene. La notte muore, scaccio l'acceleratore. Oggi sarà un giorno senza te. Domani pure. Domani un altro sole il tuo corpo riscalderà. Domani. Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Domani. E se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà. Domani. Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Domani. Questa era Domani 2.0 con la collaborazione di Pino Pipsi. Chop Chop, grazie ancora. E adesso lascio la palla a DJ Smash. Can't ball in a life, man. Go on with it, go on with it. Go on. So we have a meal with a force. Yeah. Blessings we are reaping, we coursing on full. Oh, in a rise and boast. Yeah, we give thanks that we need it the most. We have to give thanks that we really supposed to be thankful. Blessings all from life. Have a great night. questa è Port Royal. Them up and go, oh oh, cha cha cha cha. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Non hai la fresca, molla. La PS che mi stressa, molla. Mi ritira la licenza, molla. Bebe tu mi dici resta, molla. Vogliono che lui arresta, molla. Pensano che sono un gangsta, molla. Ma sono G.U.E. Per far muovere quei beat sono un professional. Questi rapper stanno muti, sono il G-National. Mollami se pensi che sei famosa ma non è uguale. Si fermano gli orologi se arrivo con la fama. Ma mollami, se poi mi parli solo di soldi attirerai soltanto la guardia e balordi. Mentre tutti gli altri rapper sono in danger, tengo la collana, brillo in mezzo alla gente. Vengo bis, vengo per fare business. Intanto queste tipe lo muovono come il fitness. Spingo fino a che il club non si rompe. Suonano le trombe quando arrivo alla tua festa. Molla, se prima non hai la fresca, molla. La PS che mi stressa, molla. Mi ritira la licenza, molla. Bebe tu mi dici resta, molla. Vogliono che lui mi arresta, molla. Pensano che sono un gangsta, molla. Ma sono G.U.E. Se ti pensi come Cupido, tu sei un G da studio, giri con uno stupido. Sei Patak, no Patek, sono real, fammi un check. Mollami se vuoi stare solo nel back. Molla quel telefono se stai facendo un video. Mollo questa bitch se snicciassi senza dire oh. Cambio cammino come un campione, connesso la strada come un lampione. You know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, bam. Take the mind, I say, say that I'm a stormy, stab somebody out of land. I like it, boom, boom, bam. Informer. You know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, bam. Take the mind, I say, say that I'm a stormy, stab somebody out of land. I like it, boom, boom, bam. These are number of homing, I did blow down my door. Rain you come part through my window. So they put me in the back of the car at the station. From that point on I reached my destination. Where the destination reaching out of east attention. With a look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. Keep on burn down, so big all them others think them have more power. They pon the phone, me say they pon a war. Me for once I use the ones and now me call me lover. Love who me calling on the one tell me. And me love her in my heart down to my belly. Yes, they know me saw me, I feel cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is snow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know, say that I'm a snow, me I go glam. I like keep on burn down. Put them on the seat, say that I'm a snow, me start to go down in there. Keep up on that damn love me now. See me life and me do what me want. And I want the one thing but them can't. Yeah, by my style. I'll come fi slaughter you. Like suku what me come fi torture you. Them bad fi who, we not talk we do. I wear the bumbo clad to him. Feel bad to them boy gonna gym. But this a no fairy tale like Aladdin. It's a frost boss, you can't call me king. Everything I burn up, we can't run up. Free up color, high butt up and they come up. Bass all hot, act like the sun up. Team Frost turn up, yeah. Back like the dog. Tell me now, give me now, follow them, let me now. Give me life, let me do what me want. And I want the one thing, but them can't. Yeah. Every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every, every badness whenever we roll out. Hey. High grade, we are one with the above cloud. Music sold out, now the place it's sold out. We have the energy to elevate the whole crowd. Turn up and shift up the tempo. Busy step out, I know how the thing go. Yard man, they are with the style and the lingo. Blaze fire, but it's not King Shango. When we roll up, clip load up, there's no luck. How we are go on, on, on. So turn it up, music box, so we load. Man from yard, yard, tell yard. Me nah follow them, but me nah live me life and me do what me want. Yo, yo. And I want the one thing, but them can't. Yeah, come on, stand. Every, come on, stand. Style get to them, me a big check to them. Yo, step to them, yo, me style get to them, a big check to them. Heavy, me style them, heavy, me floor them, heavy, me G them. Fake pandians, dog, no man, no fake friends. Certain people, me no want them, yell our ratings, them fake, them fake. Watch out the haters, I fight them, no want your eyes, cause them fake, them fake. See them a men up round the corner, come me hear them shake, them shake. Watch who you greet and watch who you heal, watch who for and you shake, enough of them fake. My dog, them are the realest thing, my friend, them are the realest thing, my G, them are the realest. Haters I pray, now I'ma drive the tree, serious thing. Man I roll out strong, no weakness thing. Touch the road fresh, I the cleanest thing. Y'all I say them want, feel this thing. Haters can't stop it till I say seal this thing. I tell certain people, me no want them yell our ratings, them fake, them fake. Watch out the haters, I fight them, no want your eyes, cause them fake, them fake. See them a men up round the corner, come me hear them shake. Watch who you greet and watch who you heal, watch who for and you shake. Enough of them fake. Watch out now, summer. Dutch down yard like a stunner. Just clear the bends and the hammer. Dirty yard, them no want you fi rise up. Them a fight the youths, no want see no newcomer. Jugglers say that tune you fi beat like a drummer. Turn up the world so it shot like a gunner. Publicity stunt, me no need go and watch me proceed. Man, serious, them can't make funner. Me no need them ratings. Me no need them ear. Dirty heart and bad mind. No matter how them try them sexy body girl. Me no want see them. Body girl. Me no want see them. Wind up your body girl. Not no fear from the dog. No wind up your face and tip by your toe. No people me no want them. Sexy cross double six domino. Brace it back for me slow. And in the womb. Bubbling girl make it. Sexy body girl make it. Shake up the place make it bang. Bang bang bang yo. Come give me the thing that don't play. None of them can't test your body no day. And you can't ask anybody, girl. You got the body, everybody want get. Oh yeah. Make the booty work, work for the income. Cause your body heavy like Jada Kingdom. Go ahead, baby, with your wisdom. Loving the style you bring, come. Wind up your body, girl, rock it down low. Wind up your waist and tip by your toe. Sexy pose, double six, domino. Brace it back for me slow. And then you boom. Bubbling, girl, make it. Sexy body, girl, make it. Shake up the place, make it. Put the bang, put the bang. Girl, you a proper thing, you know, like a thing. Shape and body hotter than where them have a bring. Tell me love it when the hip a swing, brain tell a ring. Ting-a-ling-a-ling, me need the same thing. Girl, you have a vibe, just make your body go. Me lock down your body like me a Zozo. When you wind to the top and then you take it to the floor. Now you drop the bomb and make the place explode. Wind up your body, girl, make it down low. Wind up your waist and tip by your toe. Sexy pose, double six domino. Brace it back for me slow. And then you boom. Bubbling, girl, I make it. Sexy body, girl, make it. Shake up the place, make it. Tap a tap body, if we bring to the king. Come yeah, away, yeah, you yeah, flip yeah. It and brace it and fling. Flinging up your body, you make me heart sing. Up me imagining time for the damaging. Wind up your body, girl, make it down low. Wind up your waist and tip by your toe. Sexy pose, double six domino. Brace it back for me slow. And then you boom. Bubble it, girl, I make it. Sexy body, girl, make it. Bang. Shake up the place, make it. Bang. Bang. Bang. go in your feelings. Hey, I'm also conscious, but you're swift in my mode, corner. You probably think that girl you're bad, I bet you love the drama. But I kinda like the vibe, so I guess I can come over if you really wanna. I spy that you see something you might like. Won't you come over if you really feel it? Ask all your questions, yes, I really mean it. Still stuck in their cages. Imagine the cause of your race. History remove you from pages. Well, without African unity, then the world could never free. And so said his majesty. Anywhere we walk, walk. Well, you know, step in ancient in the spirit too. You know, see, say nothing new. Mysticism in the moon. Mommy feel it in the womb. Knowledge that for yesterday, yeah. Wisdom in the hurricane, yeah. Blessings are gonna come in rain. Sun a figure shine, shine. Feel the sun up on my face, it have to be one of God's many graces. And you know see the wind carry many secrets. If you're listening, then it will reveal it. And you know see quiet is so underrated. Useful. Come on, come on, the wisdom which I'm about to use. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. Useful. I run down Kyle. What are them a do fi boost up them profile? Them a take it too far, more than miles. The example them a set fi black woman and child. Them sell out fi dollar bills and silver coins. Subliminally children a get hypnotized by them turn teenager. Them start improvise, start carry gun and take one bag of life. Them say money and them god and them no need no other. Some of them really don't know themselves. Who no act like who no happy yet no envy the brother. Your soul is better than all earthly wealth. My friend, you better know yourself. We see them a go astray and them no want no help. The founder a go beat them with a golden bell. These thoughts I won't keep to myself. You seek some only vanity and no love for humanity shall fail. Skibbly bang. You checks for only wealth and not is a crime, but look for who I do the time. Spending trillions on war, while couple billion have a dime. And the richest country, them were full of gold and full of oil. Them instigating tribal war and economic genocide. And down in the ghetto, them a come and sell with lies. And I make a bag of promises I no can verify. But this a revolution, it will not be televised. The Rasta man a open every eyes, so I can see. The rich is getting richer every day. In the daytime, had a late night, but I never lay down, I never stay down. I hope your day's fine, we should spend the day now. Hey, I'm gonna make time, so you should make time, and we should play. I have enough things to say. Hi, let's run away, we can take a vacation, treasure creation, okay. Hey, we'll go from land to sea, yeah, this ain't no fantasy, darling. Do anything you want, though. Let me take your worries off you. Stay right here next to me. Yeah, you're in good company, darling. Go anywhere you want, go. Better come back tomorrow because I know it's hard to trust sometimes, but it's harder to be lonely. Yeah, so would you rather to be lonely? Yeah. You gotta get to know me, yeah. Inna the place, dive up inna the bins, yeah. Dip on the ends, vibes up you and your friends, yeah. All them a chat, I say I happened to them, yeah. All them a chat, I say them can't make no friend, yeah. Pull up again, I kick up on this out in, yeah. Buy coconut and go rocky boy them, yeah. All them a chat, say we no worry about friend, yeah. Well, I know that, I say I happened to them, yeah. You know I've got the time, yeah. Gonna come my way, and now we gon' get to play. It ain't worth denying, yeah. This was pre-designed, darling. I don't know what else to say, and this must be our destiny. I know it's hard to trust sometimes, but it's harder to be lonely, yeah. So would you rather to be lonely, yeah? No way. They take a liking to me, yeah. Know I mean you're liking to see. Okay, I wear my day, a day I like little baby, yeah. You prefer coffee and I like sexy tea, Even though you might blend the tree, me up in the mug, the other side sensing me, yeah. Can't handle you cause I ain't no licensee. Plus your body shot, you need a license to be, yeah. I know it's hard to trust sometimes, but it's harder to be lonely. Yeah, now would you rather to be lonely? Yeah, no way. I know you're scared to give your heart, but you gotta get to know me. Yeah, so do you wanna get to know me? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Listen, me copy the vision, picture me visually, get a picture delivery. You know, say my Chris from my mommy did christen me, and then my full up of precision. That's why you feel proof for me. And when you look up, I'm a wrist, I'm a fuck. Mari McGillen de documentario, siamo cinematografica, sicario. Un top la gamma, RS Q4 Q8. Femmina da di parto, lo globo, non frate, ricetta, canna, cappa in un mojo. Su dai tono me custode, 30 minuti live, anzi esattamente 30 minuti e 24. Vedi a più di che sa gang che contando, 10.000 euro sullo ring dall'aeroporto, e che faccio? Innamorami, innamorami, figli e papà. Potessimo rasicare tutto in tessera di cala. A rotto porta piccio che mi chiede già madame. A rompevo un vino che tu papà. E a fra, mi papamo punto. Rimani ma mangi punto. Perché nessuno mi dà schifo quando sono defunto. Faccio bagno che delfino. Sto in Maldive, sto in cavolo. Ringazzano a libero. In primis a papà e a mamma. nuit que je dis chez nous. Finalement, sous le ciel, pas de douleur au rilo. J'aurai déjà au de l'os. C'est moi que la gueule du shit. Mine des vies, signe des sorts. Fonctionne encore la beau plec. Passe tout ce net. La nuit que je dis chez nous. Finalement, sous le ciel, pas de douleur au rilo. J'aurai déjà au de l'os. C'est moi que la gueule du shit. Mine des vies, signe des sorts. Fonctionne encore la beau plec. Passe tout ce net. Yeah. Fondo verde su dai tono, com'è che quando vincimo non applaudo, rindanato, rindanato, guarda pure a chi ci applaudo, dici di Cianapa, l'anzunghi perché sui miei non sono pipato, ma in silenzio mi godo panorama, guidami con Panamera, se ne anonimate, sono chi mi blocca, mi difende in strada, danno parlati cosa faccio, penso all'avvocata, chi ci dice no, solo mo, prima no, perché non te ne vemo, manche so, manche bro, e chi ci dice ve no, quando, no, no, no, no, Aruga, aruga. A noi che ci dice no, fine mo, sulle sì, parte d'ora rolino. C'ora già, ora no, si ma che la capisci. Mi devi e sinistro, funziona con l'ambo black. Passo tu se ne, a noi che ci dice no. Fine mo, sulle sì, parte d'ora rolino. C'ora già, ora no, si ma che la capisci. Mi devi e sinistro, funziona con l'ambo black. Passo tu se ne. Them a beat, them stiletto. When we step it, nothing echo. Run through them city like a metro. Silencio, aye. We nah no time for dirty bungle. The near up on me mind and me have to make it pronto. Aye, me nah no time for dirty bungle. The money on me mind and me have to get it. Say real bad girl, no friend fi make walk anyway in the world. Me bless no blood clot. Remember the days can't afford the bus pass. Now I pass when you pass the bus in a S class. Aye, get a dream, more cream, more skin, more cream in money for the whole scheme. Christiana, me please know what me mean. Aye, aye. Brown girl from the ghetto, ear might a retro. Stepping at them dancing a clock. When the rest of them a beat, them stiletto. When we step it, nothing echo. Run through them city like a metro. Silencio, ayy. We nah no time for dirty bungle. In Europe and we mine and we a figure to pronto. Ayy, we nah no time for dirty bungle. And money pa we mine and we a figure to. Ayy, life is such a movie, make me step up in the scene. Yeah, from me was a little picnic, been a drink, oh, this a dream. I want to wake up in the morning, facing at the cleaner. Run, go check my mama, want to eat in a beamer. Yes, I got me gone for tour, me just a sell out these arenas. Yes, the people show me love, can't hear myself over them scream, yeah. Life never so easy, I've always been a believer. So me been a work for Leela from a bus, just a little girl from the ghetto. Hear my retro, stepping at them dancing the clocks. And the rest of them, I beat them still at. When we step it, nothing echo. Run through them city like a metro. Silencio, yeah. We nah no time for dirty bungle. In Europe on my mind, and me have to make it run through. Hey, we nah no time for dirty bungle. And money pop my mind, and we have to get it. Girl from the ghetto. Thank you. Babylon. Good food. Fire from Babylon. Brem bem. Real. Que te mueve tutti quanti dentro la dancehall. Fire from Babylon. Fire upon Babylon. Yes, Pupa Raina, stai in ascolto di Port Royal su Pirata e Reggae Radio Show. Boom! Well, every time the healing of the nation, it was found on the grave of King Solomon. Who said that? I'm a man, Reza Basilassia, I know. All ganja man have become a structure. Yeah, oh, oh, ah, ah, ah, ah, register party. And I'm missing the din thing, sitting the din thing. Oh, put it in a whistler, the long time skin. Put it in a chalice, that a chalice blazing. To the Almighty say I chanting. Have no time to deal with idol worshipping. Some man a fi fat and next set a fi slim. Some love cocaine, some love heroin. Sickly ganja pipe and missing me a smoking. That's why me. And I'm missing the din thing, sitting the din thing. And I'm missing the din thing, sitting the din thing, sitting the din thing. And I'm missing the din thing, sitting the din thing.

us when we rush through. You must know raw cuss crew got G's like the refuse. So F who ever wanna test, bring me stress. West coast back to east, grab my toast when I reach. Truly curving, swerving, lifestyle is urban, sipping bourbon, surviving. We really keep the word when a boy one feet test is set. Done you get wet up just a bit too unprepared to shoot it fair. Bet. Fake bullets can't scar me. I can spell a week out like Safari. Play you out like Atari, sacrifice you Harvey Carby. And I'm sorry to every single rapper Dick and Harvey, saying they wanna spar me cause I think my repertoire. And my memoir be reminding me of eating calamari in the Kalahari with a band of Rastafari. So ha ha ha, you shouldn't diss refugees and your whole sound set routine. Underneath palm trees, sitting in the cool breeze in the West Indies. Flee the sea, ship my keys. Or Santa Maria, sip sangria with senorita. They keep telling me this, keep telling me that. They smile in my face, then they talk behind my back. But what they lack is the facts about my stats. My rap and pack will keep you soft. Hey like yo, what's going on? I'ma get them come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got a rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yo, what's going on? I'ma get them come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got a rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Oh, Mr. Martin, tell him to build a coffin. Today is that season. 100 MCs I get murdering. Stop it! Call Mr. Martin. Tell him to build a coffin. Today is that season. 100 MCs I get murdering. Thank you, no coming on the dance with no thank you, real naughty dreads and me don't want no rent it. Man them a skunk and the woman them plenty, all great sense in me get it from sent it. Thank you, thank you. The friendly she want, the professional she don't want no plenty. High grade stench from the suit when me spend fi. Happy well cleaning at the pebble residency. Say she love the rasta man, live it immensely. Because everything me do it well lengthy. She say me coulda do a 7-term presidency. Member the 3-hour show a triple century. Stage show ram up and me happy tell them fi. No coming on the dance with no fanky. Real naughty dread say me don't want no rent it. Man them a skunk and the woman them plenty. All great sense me get it from Sente. Thank you. No coming on the dance with no thank you. Real naughty dread say me don't want no rent it. Man them a skunk and the woman them plenty. All great sense me get it from Sente. Hey, from you a thank you, you fi take way. Listen, come on, copy him on the boss DJ. Cause none of them not original like clocks these days. I should clear about steaming at the dance, yeah. And then they set a weed up on them stock, yeah. Yeah, poor big up the real ganja farmer. From a bush, them a bun a this, we call that Fenke Fenke. No coming on the dance with no Fenke Fenke. Real naughty dreads, them me don't want no rent. Man, them a skunk and the woman, them plenty. I great sense, me get it from Senti. Fenke Fenke, Fenke Fenke. No coming on the dance with no Fenke Fenke. Real naughty dreads, them. From Earth Beat Movement Style alongside Towelly Fire Upon Babylon. Hey. Sunflowers blossom in searching for a new life. Towelly gives me the beat while music shapes. Fire upon Babylon, my lullaby. A teller gives me a league goodbye. Here and now, there's a pure light within your own. And you can't stop us now, you can bring us down. All your poison arrow, don't hurt our road. Tower Lee is the master of the Con questo salutiamo tutti e tutte. Vi ricordiamo l'appuntamento di sabato 25 al Brancaleoni Gemini Day. Domenica in quel di Montesagro. Shaken. E buonanotte a tutti e tutte. Okay.